vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 16 luglio, il sole in regione è sorto alle 5.31 e tramonterà alle 20.55. Domani ci sarà luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Lillo Montalto Monella e Armando Mucchino. Anche se arriva dal lontano oriente, il gelso è diventato la pianta simbolo del Friuli per le sue valenze economiche, storiche e paesaggistiche. Dopo anni di oblio ed estirpi dissennati, si torna a rivalutare questa pianta, il caso del recupero di un gelseto a Fagagna. A seguire le raccomandazioni per contrastare un nuovo parassita che mina i nostri pomodori e nella rubrica del vino l'ossigenazione necessaria del pigiato. Come comportarsi poi nel caso di un incontro, evenienza rarissima, con un lupo, i consigli dei forestali, per andare poi in orto per una serie di suggerimenti su come allevare al meglio i meloni, per lo spazio della gastronomia, una specialità legata al territorio già dal suo nome, la sfoiada carsolina. Come di consueto avremo l'andamento dei mercati agricoli in regione, le previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Il gelso, il morar in friulano, è sicuramente una delle piante più significative per quanto riguarda l'economia, il paesaggio e il modo di intendere la arboricoltura in Friuli Venezia Giulia. Il gelso viene riscoperto soprattutto da chi vuol recuperare questi valori simbolici di questa pianta. È il professore Pietro Zandigiacomo dell'Università di Udine che sta curando un gelseto in quel di Fagagna. Il gelso è una pianta iconica per quanto riguarda il Friuli, ma la cosa particolare è che effettivamente, mentre di norma i gelsi li troviamo lungo i confini degli appezzamenti, in filare o anche nei cortili o piante singole nelle nostre campagne, esistono ancora dei gelseti, quindi delle strutture particolari come una sorta di meleto, frutteto, quindi piante messe di mora per file e per colonne. Quindi una situazione molto particolare che era abbastanza diffusa un tempo, ma che attualmente è molto rara, e in particolare mi sono soffermato su uno di questi gelseti rimasti, che è quello di San Giovanni in Colle di Fagagna. Che utilizzo avevano una volta i gelseti e quale potrebbe essere il loro nuovo utilizzo? I gelseti ovviamente erano, come si dice in friulano, morars di fue, quindi erano gelsi coltivati per la foglia, perché con le foglie venivano allevati i bacchi da seta, quindi il famoso Bombyx mori. Era un'importante così coltivazione, allevamento diremmo meglio, nelle nostre campagne, perché per esempio era dalla vendita dei bozzoli, quindi in friulano la galette, entrava nelle famiglie il primo, diciamo così, introito dell'anno in soldi sonanti, e quindi era importantissimo per l'economia delle famiglie. E come mai questa nuova attenzione verso il morar? Il morar rappresenta così un elemento tipico del paesaggio delle nostre campagne, tant'è vero che in molti comuni, nei regolamenti di polizia rurale, è vietato il taglio e l'estirpo delle piante, perché rappresentano appunto un fattore importante di quello che è il paesaggio tipico tradizionale del Friuli. Ovviamente, purtroppo, possiamo dire, l'allevamento del bacco da seta non c'è più nelle nostre campagne, ma la rappresentazione del paesaggio tradizionale delle nostre campagne proprio è dovuta soprattutto alla presenza di filari. Nel caso in particolare del piccolo gelseto di San Giovanni in Colle, in questo caso è un piccolo gelseto, dicevo, perché insiste su una superficie di circa 1500 metri quadrati. È l'unico gelseto rimasto, per esempio, nel territorio del comune di Fagagna. A suo tempo, circa 100 anni fa, c'erano sicuramente almeno 7 ettari di gelseto specializzato come questo che è rimasto. E questo appunto è un gelseto che era costituito da 50 piante in 5 filari di 10 piante ogni filare. Purtroppo alcune piante sono morte nel tempo per motivi vari, ma alcune altre sono state sostituite con altre piante prelevate in altri contesti regionali, e quindi si sta cercando di mantenere l'integrità del gelseto così come era una volta, che questo gelseto si può stimare che abbia circa 100 anni. c'è un nuovo parassita che mina la salute dei nostri pomodori. Oggi Cristina Micheloni, per la rubrica del bio, ci dà alcuni consigli per contrastarlo senza fare troppi danni ai pomodori stessi e all'ambiente. Dal 2006 è arrivata in Europa, dall'America del Sud, la tuta absoluta, un piccolo lepidottero, meno di un centimetro, le cui larve più giovani scavano tra le pagine fogliari delle solanacee, anche loro vengono dall'America Latina in effetti, con chiara preferenza per il pomodoro. L'attività di scavo delle larve crea delle aree giallastre sulle foglie, ma il peggio è che le larve dell'età successive, che sono anche un po' più grosse, amano i frutti, quindi si spostano sui pomodori, bloccandone la crescita o provocandone uno sviluppo deforme, o aprendo la strada alla marcescenza. La farfalla ha cicli molto veloci, tanto più veloci quanto più alte sono le temperature. A 30 gradi, per esempio, passa da uovo ad adulto in meno di 30 giorni. Inoltre ne depone un bel po' e anche in modo sparso. In Italia è arrivata nel 2008, ormai è presente in tutte le regioni, anche da noi, provocando da alcuni anni dei danni ingenti, soprattutto in serra, dove le temperature sono più elevate e ci sono meno predatori. La tentazione di passare alla chimica è comprensibile, però non è né risolutiva né efficiente. Anche prime generazioni, quelle più sensibili, sono protette all'interno della foglia. Allora, come al solito, sarà una strategia che metta assieme pratiche e attenzioni, in modo da arrivare all'uso dell'insetticida, e comunque solo quelli ammessi in bio, solo come ultima spiaggia. Ecco qui gli ingredienti della strategia, da applicare in serra o tunnel, dove i danni sono maggiori. Coprire i laterali e le porte del tunnel con una rete fitta e fare molta attenzione a tenerli chiusi, soprattutto alla sera, quando gli adulti si muovono di più. Ruotare le colture in serra, far ritornare le solanacee sullo stesso appezzamento dopo almeno due stagioni, ma anche più di due. Se ci sono importanti presenze di insetto, allontanare i residui colturali, in modo da ridurre le crisalide della tuta che vorrebbero svernare lì. Eliminare le solanacee spontanee, come per esempio l'erba morella, dai dintorni delle serre. L'elaborazione del suolo o anche la pacciamatura con telo nero infastidiscono i crisalidi che vogliono andare a rifugiarsi nel terreno. Ottima anche la solarizzazione. Lasciar lavorare gli insetti utili, come alcuni miridi, e se possibile anche introdurne. Per esempio si possono effettuare dei lanci di tricogramma, quello che si usa contro la piramide del mais. L'uso invece degli insetticidi persistenti elimina gli insetti utili e alla lunga favorisce la tuta. Usare le trappole cromotropiche o a feromoni, sia per sapere come si sviluppa la popolazione, ma anche per delle catture massali. Se l'appezzamento è abbastanza grande, si può anche applicare su tutta la serra la confusione sessuale, ovviamente acquistando i feromoni specifici. Se proprio tutto questo non funziona, però dovrebbe funzionare, si possono usare o il Bacillus thuringiensis, o la zadiractina, oppure ancora lo spinosad, in ordine di preferenza decrescente. Si ricordi che i trattamenti vanno fatti soprattutto alla sera, quando è massima l'attività, il movimento intendo, della tuta absoluta, sia da adulta che da larva. Con il professor Roberto Zironi per la rubrica del vino siamo ancora alla macerazione del pigiato e oggi si affronta la sua ossigenazione e la tecnica dell'estage. La disponibilità di una certa quantità di ossigeno è il presupposto per un decorso ottimale della fermentazione durante la macerazione. In una vasca chiusa si può introdurre l'ossigeno al momento opportuno mediante le già ricordate operazioni di rimontaggio e follatura. Ma con il rimontaggio il mosto nel cappello di vinacce non è mai completamente rinnovato, mentre la follatura provoca normalmente una limitata ossigenazione della massa. Per permettere un'ottimizzazione dell'ossigenazione e degli scambi tra fase liquida e la fase solida durante la macerazione, alla fine degli anni 90 l'ICB di Montpellier ha sviluppato la tecnica del delestage, letteralmente riduzione del carico. Nell'ambiente produttivo la tecnica è denominata con il nome originale, in quanto non esiste un termine italiano equivalente. La tecnica del delestage prevede come prima azione, appena si è formato il cappello, di travasare la frazione liquida dal serbatoio di vinificazione in un'altra vasca di appoggio. La vasca di partenza viene svuotata totalmente con ossigenazione del mosto mediante diverse procedure. È fondamentale il completo svuotamento della vasca dei succhi in essa contenuti, in quanto con questa operazione si ossigena tutto il mosto, specialmente quello più concentrato in polifenoli, che si trova a contatto con il cappello. Per effetto dello svuotamento, il cappello si adagia sul fondo del serbatoio, ove grazie alla forza di gravità e al suo stesso peso, tende a comprimersi facilitando la diffusione degli elementi estratti. In un tempo variabile, tra mezz'ora e un paio d'ore, si completa la separazione per sgocciolamento delle ultime frazioni liquide presenti nella vinaccia. La fase finale consiste nel riportare la frazione liquida nella vasca iniziale, distribuendo uniformemente e delicatamente il mosto vino sulle vinacce, evitando che un getto liquido violento disgreghi il cappello, spappolando le bucce e producendo feccia. Con l'applicazione del delestage si ottiene un'ottimale ossigenazione del mosto, in particolare quello che si trova sotto il cappello, favorendo l'azione dei lieviti. Lo sgocciolamento del cappello favorisce la diffusione degli elementi e delle parti solide dell'uva nel mosto e la reazione di tutto il succo. La tecnica permette, quando si trasferisce il liquido sul cappello, l'omogeneizzazione del succo con le vinacce e una intima interazione tra liquido e vinacce quando il cappello risale in superficie. Si deve però prestare attenzione a non eccedere, nel corso delle vinificazioni, nel numero dei delestage, in quanto si ha un forte assorbimento d'ossigeno da parte del mosto che, se in eccesso, può portare ad ossidazione dei profumi e delle sostanze coloranti. Ossigeno che, al contrario, nelle dosi opportune è indispensabile alla fissazione e stabilizzazione degli antociani estratti nel corso della macerazione. Seconda puntata oggi con l'ispettore della forestale Dario Di Gallo sul lupo, sul ritorno del lupo anche nei nostri boschi e foreste e soprattutto come dobbiamo calibrare questa nostra nuova convivenza. La Regione affronta questa problematica agendo attraverso le azioni delle strutture operative del Corpo Forestale Regionale che nella pratica svolge il monitoraggio del lupo nel territorio e attua le azioni di diminuzione dei conflitti fra lupo e attività umane, migliorando la coesistenza e sviluppando, attraverso attività educative e di comunicazione, la conoscenza delle problematiche e delle migliori strategie di gestione. Se si dovesse incontrare uno o più lupi, è la domanda più frequente che ci viene posta. Dunque, evitare di mettersi a correre. Assumere un atteggiamento aggressivo, muovere verso il lupo gridando e battendo le mani, usare bastoni, sassi. Nel caso il lupo tentasse una reazione, non girarsi per fuggire, questo è il comportamento tipico delle sue prede, ma continuare a mantenerlo di fronte. Se siamo in due e si incontra più di un lupo, mettersi schiena contro schiena. Allontanarsi lentamente, sempre guardando nella direzione sua, replicando l'atteggiamento aggressivo, urlando e gesticolando in atteggiamento terrifico. Se dovesse attaccare, difendersi con determinazione, usando qualsiasi oggetto a disposizione per colpirlo verso il muso. Ma incontrare un lupo è un evento raro. Se ciò avviene, restiamo a distanza, senza avvicinarci. Tenere i cani al guinzaglio e sotto stretto controllo. I lupi possono essere molto aggressivi nei loro riguardi, considerandoli degli antagonisti. Anche con persone presenti. In Italia gli attacchi del lupo nei confronti dell'uomo sono episodi che riguardano i secoli passati, quando la frequentazione umana delle aree rurali e della montagna era più intensa e il numero dei lupi molto maggiore. Attacchi che riguardavano quasi sempre bambini sotto i 10-12 anni lasciati soli a governare le greggi. Le prede naturali erano inferiori a quelle attuali e la grande diffusione della rabbia silvestre rendeva gli animali infetti molto aggressivi. Una convivenza pacifica con il lupo è possibile, come dimostrano le esperienze di altre regioni italiane ed europee, ma come sempre il rispetto nasce dalla consapevolezza del bene da tutelare, ricercando l'equilibrio fra la natura e l'attività umana. Il melone è un frutto di stagione che soprattutto con le nuove varietà ha buone rese anche nei nostri orti. Qualche suggerimento per una migliore riuscita della sua coltivazione con Sara Bosco. Oggi vorrei occuparmi dei meloni, che è un altro ortaggio tipico di questo periodo, che può essere coltivato anche nelle nostre zone con dei buoni risultati. Il melone appartiene sempre alla famiglia delle cucurbitacee come le angurie, i cetrioli e le zucchine. Richiede dei terreni con una buona quantità di sostanza organica, senza ristagno idrico, perciò vanno coltivati in profondità, e necessita di un apporto importante di potassio, in quanto è l'elemento cardine per determinare poi la quantità di zuccheri nel frutto. Per germinare il seme necessita di temperature intorno ai 24 gradi, perciò se si vuole anticipare la produzione è preferibile seminare in sementaio e poi trapiantare in pieno campo, altrimenti avrà bisogno di molto più tempo per emergere. Generalmente si ricorre alla pacciamatura per andare a evitare danni dai lateridi e per gestire meglio le infestanti. Queste però possono anche essere tenute, diciamo, sotto il controllo con delle frequenti secchiature fino a quando la pianta non occupa tutto l'interfila. La messa di dimora avviene su file distanti tra loro circa un metro e una distanza tra le piantine di un metro e mezzo. Questa distanza si rende necessaria dato l'elevato accrescimento della pianta. Richiede delle irrigazioni fino alla fase di diciamo ingrossamento dei frutti. Quando questi poi sono formati non va irrigata perché si va a togliere il grado zuccherino e inoltre si può andare incontro alla rottura dei frutti. Una volta che il frutto è maturo assume la sua tipica colorazione della buccia e diffonde, diciamo, nell'ambiente il suo profumo tipico. Ma per avere la certezza che sia matura basterà cercarlo di staccare dalla pianta in maniera delicata. Questo perché la pianta, una volta che il melone è maturo, blocca il passaggio delle sostanze e si stacca senza alcuna fatica. Questo ortaggio può anche essere coltivato comunque sul balcone o sul terrazzo, ma in senso verticale, facendolo crescere su una rete plastica o metallica, andando così a sfruttare le altezze e in quanto se lasciato strisciante occuperebbe troppo spazio. Roberto Zotar per la rubrica della gastronomia oggi ci parla della sfoiada carsolina, una millefoglie nostrana che già dal suo nome tradisce la sua provenienza. La millefoglie, o pasta crema, è uno tra i dolci più diffusi al mondo e presenta innumerevoli varianti. La ricetta base prevede tre strati di pasta sfoglia alternati a crema pasticcera. La sfoglia, preferibilmente sottile e friabile al palato, deve risultare croccante e non ammorbidita dalla crema. La crema pasticcera, invece, deve essere particolarmente soffice e gustosa e non sapere di farina, ma di ciò parleremo un'altra volta. Il trucco per realizzare una sfoglia che rimanga croccante anche a contatto con la crema è, a sfoglia quasi cotta, di cospargerla di burro di cacao in polvere se lo avete o di zucchero a velo, così da impermeabilizzare o caramellizzare la superficie. Il nome deriva dal francese millefeuille e il primo riscontro storico è del 1651 nel libro Le Cuisinier François del cuoco François-Pierre de la Varenne. Ma la versione attuale è della fine del XVIII secolo e si deve a Marie-Antoine Carême. Il dolce in Russia è conosciuto come Napoleon, in Italia invece si ha anche uno strato di pan di Spagna inzuppato e detto diplomatico. Nel veronese, grazie allo stellato pasticcere Perbellini, c'è una millefoglie nota come dolce strachin. La sua particolare crema soufflé di farcitura, già dopo pochi minuti dopo la preparazione, inizia ad afflosciarsi. In dialetto veneto la se straca, ossia si stanca, motivo per cui il dolce viene sempre farcito all'ultimo momento. Rinomata la millefoglie della vicina Bled in Slovenia, divenuta simbolo della cucina della città con uno strato di crema sovrastato da uno strato di panna. È stata ideata nel 1953 dal pasticcere István Lukacevic dell'Hotel Park e ora si trova in tutte le pasticcerie slovene. Nelle osterie del nostro Collio, accanto a palacinche e struccoli, sono sempre presenti le millefoglie, le cosiddette sfoiade carsoline, sempre servite a grossi rettangoli che forse per le dimensioni abbondanti vengono chiamate scherzosamente ciabatte. La crema della sfoiada si distingue per una sua particolare freschezza al palato dovuta all'aggiunta di burro montato. Per una teglia di sfoiada, con un chilo di pasta sfoglia preparata tradizionalmente o comprata pronta, realizzate due sfoglie cotte al forno. Per la crema frullate 8 tuorli contraenti di zucchero, unite 150 g di farina, 1 litro di latte e cuocete fino alla giusta consistenza. Da tiepida mescolatevi 50 g di burro, volendo una grattugiata di limone, e stendetela su una sfoglia. Copritela con l'altra, spolverate di zucchero a velo e, volendo esagerare, cospargete i bordi di noccioline tritate. Buon appetito! E con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato debole con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 23,10 e 23,40 euro il quintale IVA esclusa. il frumento tra 20, 20 e 50, l'orzo peso specifico 62-65 tra 16 e 30, 16 e 80, e la soia non è stata quotata. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 10 euro il quintale e l'orzo di 12,70 centesimi. Leggera flessione sui prezzi del settore zootecnico, le vacche fine carriera di prima qualità vengono pagate a peso morto fra 3,10 e 3,60 euro al chilo IVA esclusa, quelli di seconda fra 2,50 e 3,10. Nel comparto dei vitelli da ristallo, quotazioni stazionarie. I blu belga maschi sono quotati tra 6,30 e 6,80 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,70 e 5,20, i frisoni tra 2,10 e 2,40, i bruni alpini tra 1,60 e 1,80 euro al chilo. In lieve calo invece il mercato dei suini, con i lattonzoli di 30 kg quotati franco partenza tra 4,50 euro al chilo IVA esclusa, i grassi da macello a 1,97. Nel comparto caseario la commissione camerale di Pordenone e Udine ha determinato il prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli-Venezia Giulia quotandolo in ribasso tra 51 e 54 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, scambi diversificati con prezzi in calo nel settore degli avicunicoli. Il valore del poliaterra varia da 1,50 a 1,52 euro il chilo IVA esclusa, le anatre da 3,41 a 3,45, i tacchini maschi da 1,70 a 1,72, le faraone da 3,62 a 3,72, le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Questi primi 15 giorni di luglio ci hanno già presentato temperature sopra la media e ci sono stati diversi episodi temporaleschi anche di forte intensità dovuti alla presenza di aria calda e umida nei bassi strati che contribuisce a sviluppare celle temporaleschi importanti quando passano anche solo modesti fronti atlantici. Giovedì, nelle prime ore del giorno, i temporali molto intensi hanno provocato danni soprattutto per il forte vento. Si sono misurate raffiche record sulla bassa pianura friulana, fino a quasi 130 km orari a Palazzolo dello Stella, e in molte altre località raffiche intorno ai 115 km orari. Ora l'anticiclone di origine africana si sta estendendo nuovamente su gran parte dell'Europa centro-meridionale e nei prossimi giorni porterà stabilità atmosferica. Fino a martedì il cielo rimarrà in prevalenza sereno e le temperature aumenteranno, con massime previste in pianura fino a 36-37 gradi, localmente forse anche 38, e con le masse d'aria che giungeranno dall'Africa e dal Mediterraneo ci saranno condizioni afose. È previsto caldo anche ad alta quota, con temperature di 17-18 gradi a 2000 metri, e nei pomeriggi di lunedì e martedì saranno possibili dei locali rovesci temporaleschi sui settori montani più interni, specie a confine col Cadore e con il Comelico. Mercoledì si intravede un lieve cedimento dell'anticiclone, con l'ingresso di correnti occidentali in quota leggermente più fresche, condizioni che saranno favorevoli a far sviluppare dei temporali, localmente anche forti, oltre che in montagna anche sul resto della regione. Successivamente, a partire da giovedì, le temperature inizieranno a scendere, riportandosi nella media del periodo, e verso la fine della settimana l'avvicinamento di una depressione atlantica potrebbe provocare maggiore instabilità. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Sante Maria e Maddalene e vai volentieri, ovvero il giorno di Santa Maria Maddalena, il 23 luglio, piove volentieri. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lillo Montalto Monella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.